sto coglione che si pone a bruciare. Fammi un tubo dell'aria, mi si è spaccato, cazzo. No, non è possibile qua.